acquista la vista divina e acquista la luce della fede. Faccio notare, anzi faccio tre annotazioni. È salvezza sia acquistare la vista, come è salvezza acquistare la fede in Gesù Cristo. Vuol dire, la vita in tutte le sue dimensioni, tutte le sue dimensioni, e la fede lungo il suo cammino, il suo processo, non si possono mai contrapporre. Faccio una seconda annotazione. Davanti a questa pagina del Vangelo siamo coscienti che i racconti di miracolo non sono un resoconto di cronaca o una nitida fotografia dei fatti, però contengono una verità profonda, cioè nell'incontro con Gesù, profeta, messia, taumaturgo, avviene qualcosa di radicale che cambia anche la vita. Qualche domenica fa, quando parlavamo del giovane che è andato a chiedere cosa devo fare per avere la vita eterna, Gesù lo guardò e l'uomo, commento, allora diciamo, lo sguardo di Dio su di noi ci turba sempre, ci inquieta, ci mette in movimento, forse ci fa cercatori più di verità. Una terza annotazione è il grido di Bartimeo, perché è un grido che, come dire, riconosce il bisogno di guarigione, quindi a consapevolezza dell'essere cieco, ma c'è anche la voglia di uscire dal ciglio della strada, proprio per imprimere una svolta alla propria vita. Questo gridare ancora più forte, mentre lo sgridano per farlo tacere, documenta quella lucida e ostinata consapevolezza di questo uomo di nome Bartimeo. Ha capito che l'incontro con Gesù può cambiare la sua vita e non può lasciarsi sfuggire questa occasione. Allora suggerisco tre spunti di riflessione che possono aiutare anche noi, o quantomeno a dire che, attenzione, che la pagina del Vangelo non è qualcosa di bello che leggiamo o di impegnativo che leggiamo, ma parla adesso, parla a noi, parla a me molto bene. La prima riflessione è questa: un mendicante cieco, seduto ai bordi di una strada. Cosa c'è di più perduto, di più inutile, di più naufrago della vita? E proprio per questo, di lì un giorno passa lui, il Signore. Bartimeo alza la voce e la alza per farla, per superare il rumore della folla. Il rumore. E comincia a gridare la sua speranza, il suo desiderio. È un grido che incontra una prima barriera. E chi sono? Coloro che mettono la barriera per primi, gli accompagnatori, Gesù. Pedisce, lo compatiscono, lo ritrovano, lo disturbano. Perché lui disturba. Tanto non è possibile guarire. Rassegnati, sopporta, accetta, ma cosa cerchi mai? Che spegnimento della fede, della grazia, riflessione per i credenti, accompagnatori di Cristo, si infastidiscono. Ora, c'è il rischio che anche noi viviamo una religione in cui anche le grida sono diventati reati. Fate silenzio, ascoltate voi il prete. Un grido fuori quadro, fuori programma. Non previsto, non avvertito. Facciamo noi il sinodo dei vescovi, ci crediamo dentro, no? Qui abbiamo ascoltato qualcosa fuori, però un grido fuori quadro, non avvertito. Queste grida sono normalità. Mi viene di accostare a quanto Gesù diceva a proposito degli scribi farisei, i maestri di Israele. Gesù dice: voi credete di avere le chiavi del regno, credete, ma né aprite né permettete agli altri che entri. Datelo giù, ci fissi nel cuore, i simboli, tutte queste discussioni qui, no? È roba attuale, eh? Principi non negoziabili. Io adesso la metto lì come se fosse qualcosa di spiccio, no? So che è complessa la situazione, ma non è a partire da lì. È così, di qui niente, di là lasci chiedere di più. Poi si soffrono, è un cavolo di devono pensarci prima, bla bla bla. È difficile rimettersi in discussione, perché ci sono grida di cui abbiamo perso o rischiamo di perdere perfino l'alfabeto di queste grida. Quindi facciamo fatica a riconoscerli, sono alterati. Ci sono certe attenzioni o certe ricerche che urtano i nostri codici di comportamento, di tradizioni, di codici detti morali. Certo, è difficile stabilire i sentieri anche quotidiani, che conducono a rispecchiarsi in Gesù Cristo. Allora, una seconda riflessione, quando siete stufi alzate la mano e dice basta così per oggi, fatelo con libertà. Secondo riferimento, Gesù dice chiamatelo. Tutti gli altri a dire, ma no, tu dacci e fai silenzio. E lui dice, chiamatelo, accolto il grido. E i discepoli finalmente dicono, alzati, ti chiamo. Gesù ha compassione, si immerge nelle situazioni. Bartimeo, il cieco, già comincia a guarire prima ancora come uomo che come cieco. Esce dal suo naufragio umano adesso a uccidere dalla strada, perché qualcuno si è accorto, si è fermato, lo ha udito, anzi, ha fatto fermare tutti gli altri proprio per lui, ha ascoltato lui, l'ultimo, quello che doveva far silenzio, quello che non doveva neanche esprimere il desiderio di vedere, di essere guarito, si scopre atteso. Non mi dice niente, cronca. È stupendo questo grido, perché il grido e la risposta a questo grido si ritrovano. Il grido già contiene la risposta. Gli accompagnatori di Gesù non sono quelli che chiedono la carta di identità, l'impronta, il mettersi in fila, il biglietto di... ma quelli che dicono alzati, ti chiamo. Ultima considerazione. Butta via il mantello, dice il Vangelo. Bellissimo. No? Alzati, ti chiamo. Butta via il mantello. Balza in piedi e va verso colui che ha posto l'attenzione nei suoi confronti. Considero, parlo per me, alta voce. La fede è una liberazione. La sparo forse un po' adesso, se ci pensiamo. È una liberazione anche dalla necessità del ragionare troppo. Dalla necessità, dalla rassegnazione, dall'indifferenza. Senza chiusure assolute. La fede è una liberazione di tutte queste necessità. Perché è un offrirsi, è un rispondere a una promessa, a una chiamata. La fede è fidarsi, adesso uso un po' queste parole, delle vibrazioni della parola di Dio, che è captata non tanto prima dalla testa, che arriva poi dopo, ma dalla finezza del cuore. Se mi venisse chiesto quale segno posso dare per affermare che la mia fede è un fatto autentico, dovrei poter rispondere così, è che mi libera, magari mi fa piccolo piccolo, però mi libera, mi fa libero e non a livello solo di desiderio, desidero di essere libero, ma nell'autenticità dei rapporti con le persone. Se Gesù Cristo è il vero Messia, è perché ha instaurato un rapporto di salvezza con le persone, pagandone anche il prezzo. È nel vivere dentro le situazioni che la vita mi fa incontrare, ci si incontra. Vabbè, chiudo dicendo, prese a seguirlo per la strada. Nelle nostre, come chiamarle? Le nostre aurore, le nostre aule, inizio giornata, più o meno grigie, più o meno limpide, si è dato anche a noi di incontrare qualcuno che ci ripeta quella dolce, forte parola che rimette in piedi chiama. E poi quel dono va al confine di ha salvato. Felici noi.